Allora, eccoci qua con Giovanni, un compagno che vive abbastanza lontano da noi. Puoi dirci dove? A San Cristobal de las Casas. Quindi all'interno della comunità del Chiapas, degli zapatisti, se non erro. E Chiapas è stato... Il Chiapas è lo stato, sì, dove si è insediata la comunità degli zapatisti da oramai più di un ventennio. Raccontaci un po' che cosa state portando avanti e brevemente. Allora, io appartengo a un collettivo che è il Nodo Solidale nella sua parte messicana. E il Nodo Solidale è un collettivo che si compone di due anime, una italiana e una messicana, appunto. In Messico la maggior parte di noi vive nella città di San Cristobal de las Casas e abbiamo diversi progetti legati al collettivo. Una è una casa di salute, un poliambulatorio autonomo nel quartiere di Cuxitali, in città, che è un'assemblea di donne, di una quindicina di compagne che hanno deciso di affrontare il tema della salute da un punto di vista prima di tutto della gestione assembleare, della cura, del curarsi, e riscattando tutte quelle che sono i saperi non ospitalizzanti, quindi il modo di curarsi della gente di lì, che sono gli antichi saperi anche sulle erbe e sui rimedi naturali. In più è un'assemblea che lavora sulla salute riproduttiva e anche su contesti di salute in momenti politici, come manifestazioni, cortei, come ci curiamo anche durante la repressione. L'altro progetto nostro è quello della cooperativa La Coseccia, che è una libreria a San Cristobal, una cooperativa libreria dove lavorano tre compagni del collettivo più altre due compagne. E in questa cooperativa facciamo libri, si fanno libri e si possono leggere libri. È uno spazio aperto ed è anche un archivio di movimento. Noi raccogliamo tutti i materiali, tutte le informazioni, gli audio di movimento e li mettiamo insomma a memoria. Cioè poi, è un archivio anche, quindi diciamo sì, ha anche il ruolo dell'archivio, di la funzione di archivio proprio consultabile. E tutti i libri che vendiamo alla Coseccia poi facciamo questa cosa della stampa illegale, possono essere stampati con PDF, insomma. Benissimo, hai detto quindi salute. Vi occupate? Li si trovano quindi su internet? Si può accedere a un archivio digitale? No, non andare lì con la pennetta e prendere con la USB. E poi in realtà gli altri due progetti, c'è anche un altro compagno del nodo che vive a Guerrero, a Sulha. La comunità si chiama Xochitlahuaca, è il sud di Guerrero, e lì c'è una cooperativa che fa cacao e cioccolato. Questo per la parte messicana, però noi siamo un collettivo che abbiamo una parte grande italiana, abbastanza grande italiana, soprattutto romana, siamo abbastanza romanocentrici, e sono tutti compagni e compagne che vengono da differenti spazi politici, da differenti percorsi, differenti aree, e sono tutti legati a occupazione di spazi o altri tipi di assemblee, di percorsi. E in più il Nodo Solidale nella sua parte italiana, forse poco conosciuto magari come collettivo, ma è conosciuto di più per la Sagra del Peperoncino, che è una cosa che noi facciamo ogni anno al Forte Prenestino, e poi a Bologna XM24, poi a Lugano al Molino, che è il momento in cui noi ci finanziamo tutte le attività che facciamo a San Cristobal, tra cui, che mi stavo dimenticando, in realtà la più importante, facciamo il pane nelle comunità zapatiste. E con questa festa, con questa grande festa, che poi è una gara di cumbia, è una gara di piccante, di resistenza al piccante, ci finanziamo tutte le attività che facciamo nella parte messicana. E un editoriale che si chiama Kairos, che è un po' la parte editoriale nata da compagni che fanno parte del collettivo del Nodo, con cui abbiamo già pubblicato vari titoli, varie fiabe, le fiabe bellissime, abbiamo visto, molto belle. Infatti abbiamo avuto anche occasione di invitarli l'anno scorso proprio a Radio Wombat per la presentazione di Prossima Fermata, e abbiamo parlato anche delle storie del comandante Marcos. Ma ecco, è un collettivo che è nato in Italia o in Messico? Allora, il collettivo nasce in Messico dal viaggio di alcuni compagni che vanno nel 2006 in Messico e si incontrano con tutto il Messico della Resistenza, a partire da quella che era la più grande quel tempo, 2006-2007, che è la comuna di Oaxaca, e tutta la resistenza che si è data da questa gestione comunitaria di una grande città. E poi si spostano in Chiapas, inizia un desiderio di dare una forma a questa comunità romana all'inizio, che si sposta in Messico, e nasce il Nodo Solidale come, come collettivo internazionalista, tutti noi che facciamo parte, poi che siamo entrati negli anni in questo nodo solidale, che ora è una comunità, è un collettivo politico territoriale in Messico, è un collettivo internazionalista con tante comunità territoriali che lo compongono in Italia, nasce con compagni e compagne che veniamo dall'internazionalismo, da percorsi in Palestina, nei Paesi Baschi, in Kurdis, insomma. Sì, quindi un tentativo di riportare un po' l'esperienza internazionale, in particolare del Messico, nel nostro paese, nella nostra quotidianità. Sì, sicuramente. Noi poi abbiamo un'assemblea lì che è territoriale, quindi il lavoro del riportare lo fa anche più la comunità, diciamo, italiana. Là noi ci muoviamo nei percorsi che abbiamo attivato territoriali, che sono la cooperativa La Coseccia, la Casa di Salud e le varie assemblee e percorsi in cui stiamo nella città. Come qua i compagni e le compagne italiane si muovono ognuno nei propri percorsi. Però sì, il tentativo che facciamo è di offrire, e ce ne erano già stati altri, ma forse non ci piacevano i tentativi di ponte col Messico, di offrire uno sguardo sul Messico, non a partire dai selfie con i zapatisti, e allora non c'erano i selfie ma ora sì, ma da riportare delle pratiche di lotta da cui possiamo forse imparare tanto qua in Italia, in un contesto che è diverso, e di portare delle pratiche nostre di lotta in Italia là in mezzo. Uno scambio esattamente. Ma una domanda subito, ma infatti per chi come noi vi sta ascoltando e è volenteroso magari di andare un po' in avanti in questo senso, come funziona? Ma noi, penso tutti e tutte, abbiamo sempre bisogno di andare a scuola, ma non la scuola quella, ecco, dei libri, l'università, ma andare a scuola dalle persone che stanno lottando, dalle comunità che stanno lottando. Mondeggio in questo senso è oggi ci troviamo a parlare di una grandissima scuola, e il Messico lo è, il Chiapas molto, e quindi noi facciamo anche un lavoro in Messico, qualcuno di noi ha la commissione, diciamo, ospitalità, per cui vengono compagni di vari spazi italiani e noi questi compagni cerchiamo di fare seriamente un percorso di accompagnarli in questa anche realtà. Noi non siamo un'associazione, non siamo un ONG, siamo un collettivo politico, però se vengono compagni che riportano le pratiche di lotta poi ai loro spazi in Italia, per noi è importantissimo, è bellissimo che conoscano i posti dove noi ci muoviamo, che sono lì le comunità zapatiste, in cui non facciamo, non vi pensate al grande lavoro, impastiamo, facciamo il pane, costruiamo dei forni, e Finca Alemagna, che è un'altra occupazione di terre che abbiamo alimentato, abbiamo contribuito a creare, che è un posto come Mondeggi, solo che nella Sierra Zapoteca di Oaxaca. Vi abbiamo proprio sentito invitare, di fatto, persone, no? Sì, i compagni e le compagne che vengono in Messico, noi in realtà li invitiamo a scriverci, abbiamo una mail a cui non rispondiamo mai, che sì, buono. Perfetto. Che è nodosolidale@autistici.org, però in realtà avvisando prima rispondiamo, e un Facebook che è Nodo Solidale, e per organizzare anche seriamente l'arrivo di compagni e compagne lì, per dargli ospitalità e mettere a disposizione, diciamo, la nostra logistica anche lì, no? Che è una logistica fatta, certo, di persone che, certo, lavorano, che hanno bambini, bambine, che assolutamente. Ma non lo facciamo di lavoro, ecco, insomma. Una parentesi, infatti, per ciò che ci riguarda anche un po' più direttamente, cioè il mondo della radio, ce ne parlavi tu prima, ma anche sappiamo di alcuni compagni fiorentini che sono venuti proprio tramite il nodo in Messico e ci hanno riportato delle testimonianze interessanti su come comunque la radiofonia svolga un ruolo. Sì, le radio comunitarie, senza radio comunitarie forse non ci sarebbe lo zapatismo, ha detto qualcuno, e io penso che sia vero, perché la radio lì non è uno strumento, diciamo, in caduta libera, purtroppo, come anche in tanti paesi come l'Italia, ma ancora per tantissimi posti del Messico, che è un paese ancora molto contadino, è l'unica maniera per capire cosa sta succedendo, proprio l'unica. E quindi, per esempio, anche se pensiamo anche all'insurrezione zapatista, ma tutte le maniere di convocare anche un'assemblea di paese, un'assemblea anche di quartiere, si fa sempre attraverso della radio. E noi in particolare alimentiamo e collaboriamo una radio che è un po' la radio di movimento di San Cristobal, che si chiama Frequenza Libre 99.1, però insomma stiamo attenti e al pendiente, come si dice lì, della situazione di molte radio comunitarie. Una in particolare è una radio in cui lavora e che alimenta un compagno del collettivo, e questa radio si chiama Radio Gnunda ed è una radio di Guerrero che vi invito a conoscere, andare a vedere. Hanno un Facebook, Radio Gnunda, la palabra dell'agua, e anzi loro sapevano che noi saremmo stati a Mondeggi e ci hanno chiesto proprio di dirvi ai compagni e alle compagne italiane di dare un'occhiata, perché chi fa radio in Messico è una persona che uno su due viene uccisa, perché la radio è uno strumento che ha una potenza straordinaria, non solo di comunicazione ma di fare comunità. Quindi là i collettivi e le comunità resistenti quasi sempre si organizzano mettendo una radio, cioè la prima cosa che si fa. Bene, avete altri... questo è anzi che drammatica la testimonianza di quanto evidentemente questa cosa è scomoda, se sono così tanto a rischio della vita soltanto per il fatto di praticare questo tipo di comunicazione. Ma se posso, un'altra testimonianza che c'era arrivata da un recente incontro sul tema dello zapatismo che si era svolto pochi mesi fa nello spazio sociale della Polveriera a Firenze, era di un compagno sempre di Kairos che anche lui era venuto in Messico, e ci raccontava di come la condivisione delle letture delle notizie sui giornali essa stessa fosse nelle sue esperienze un grande momento di comunità. Il fatto che ci si ritrovava la sera per leggere gli articoli di giornale, commentarli assieme, e quindi come se fosse, lo dicevamo anche ieri con Pippo con cui abbiamo parlato, in qualche modo un senso di comunità radicato intensamente, più di quanto forse lo si colga in Italia. Ma sì, sicuramente c'è, cioè, il senso di comunità, non si capiscono i processi politici messicani se non si capisce il fatto che sono delle comunità che mangiano assieme, che dormono assieme, che fanno la festa si organizza la festa del patrono, del santo assieme. C'è tutta questa dimensione che è imprescindibile per capire il Messico. Io però, anche personalmente, sulla narrazione che invece in Italia non c'è un senso di comunità, non mi piace, perché penso che in realtà bisognerebbe un po' più spingersi, ecco, quello che c'è, e c'è tanto. Noi ora siamo qua a parlare a Mondeggi e io sono proprio felice di poter stare in una comunità resistente, ecco, mi sento molto... Io vivo in Messico, per me ora lì è casa, ma mi sento molto a casa qua, come ci siamo sentiti con Neto, che è il compagno che ha presentato il documentario ieri in Val di Susa, e si è sentito lui a casa sulla Miata, ma anche a Roma in un'occupazione, in un centro sociale. Quindi io penso che comunità, la comunità non la fa nella geografia, nel posto dove siamo nati, ed è molto anche semplice dire che è più facile fare comunità in Messico perché è un posto più rurale. Non è vero, e la comunità parte dalla nostra vita familiare, dalla nostra vita in collettivo, che forse una cosa che possiamo imparare, ecco, dall'America Latina e dal Messico, che ci sono delle parti imprescindibili come la condivisione del cibo e una parte spirituale che forse è importante imparare a condividere insieme. E io penso che comunità, ecco, si faccia così anche in un capannone, cioè si può fare ovunque. Sicuramente un paese contadino come il Messico non ha perso delle dimensioni comunitarie, che sono lavoro collettivo, e quindi il fatto che tu un giorno a settimana devi fare lavoro collettivo per degli altri, un giorno in cui tu doni la tua gratuità, il tuo tempo, abitua anche la testa delle persone a formare la comunità, non a fare il volantino. È importante fare comunità dal basso. In realtà fare comunità è un piacere, perché io senza gli altri nel mio lavoro, nel lavorarmi nella mia parcella o nel mio quartiere, nella mia colonia, lì si dice, no? Non sono nessuno. Cioè lì, se per esempio la sicurezza, no? La sicurezza dei quartieri, c'è quasi sempre una polizia di quartiere, che però non è la lince, ecco, sono persone, certo, che fanno i turni di un quartiere, che si accollano una volta a settimana di andare di mantenere la sicurezza nel quartiere. Ecco, queste dinamiche qua si danno perché fare comunità è bello, no? È uno slogan, ecco. E quindi questo, io penso che ci sono tanti e tanti in Italia che lo pensano e che lo praticano, e io sono emozionato di vedere che si fa qua a Mondeggi. Noi ti ringraziamo intanto per questa testimonianza. Sì, l'ultima cosa, magari ci hai dato una mail. Non era per chiudere, era per sottoscrivere a livello personale ciò che era stato detto. Ci tenevo. La mail è nodo.solidale@autistici.org. Benissimo, avete una pagina Facebook, è detta Nodo Solidale. E poi abbiamo un altro sito che si chiama Resistenza Globale Autonoma, Resistencia Globale Autonoma, che è un percorso che abbiamo lanciato da poco, che è il tentativo di raccogliere tutte, di sistematizzare tutte le partecipazioni, le ponenze, adesso mi viene un italiano del cazzo, però i documenti che sono stati presentati a un incontro ultimo che noi abbiamo fatto, che è stato molto simile anche a questo incontro, dove ci siamo incontrati con tutte delle persone con cui abbiamo sentito un'affinità a volte ideologica, a volte perché a entrambi ci piace mangiare i tacos di qualcosa, ecco. Non necessariamente perché abbiamo fatto un'alleanza o siamo stati in un determinato corteo, persone con cui abbiamo sentito una forte affinità e abbiamo deciso di incontrarci, di fare 2 giorni in cui ci guardavamo in faccia e ci dicevamo cosa volevamo fare e lo sistematizzassero. E l'abbiamo fatto e miracolosamente siamo riusciti a fare anche un sito dove abbiamo messo questa informazione. E quindi sì, vi invitiamo a darci un'occhiata, perché ci sono tante parole di persone che sono anche vicine a voi, che per esempio in Otav Mondeggi ci ha mandato una bellissima lettera, compagni della ZD di Land ci hanno mandato una bellissima partecipazione, ecco, tanti anche posti che sono qua in Italia. Io ho una domanda ancora, in realtà, anche perché la religione, il cattolicesimo, volevo sapere, nei territori in cui vivi e ti muovi te in Messico, svolge una funzione sociale diversa da quella che si percepisce qui? Assolutamente. Cioè, lì è imprescindibile pensare alla lotta in Messico senza considerare la religione, non solo il cattolicesimo, perché poi ci sono anche tantissime altre religioni, però sicuramente non si può fare i conti senza la Chiesa in Messico. Però la presenza della Chiesa, ne parlavamo a Radio Onda Rossa la scorsa settimana a Roma, che ci chiedevano come mai in questo documentario che stiamo presentando in queste settimane compaiono preti, compaiono, insomma, qua non siamo abituati, siamo abituati a vederlo come un sistema giustamente di oppressione, ecco. Però in Messico, anche perché la teologia della liberazione nasce anche un po', si teorizza in Messico e poi si diffonde in Centro America, innanzitutto c'è una relazione con la Chiesa Cattolica diversa nella relazione che si ha con alcuni preti, soprattutto con le pastorali sociali, che sono reali strutture di organizzazione. Forse a tante non piace, ma lo zapatismo non sarebbe esistito senza la diocesi, che ha fatto un lavoro di reclutamento delle persone, cioè, hanno fatto un lavoro di supporto. Il comandante David, che è un comandante delle ZLN, era un catechista della diocesi, e molti, la comandante Ramona, molte figure anche militari della guerriglia erano catechisti per 2 ragioni. Primo, perché c'è una relazione con la religione diversa, ecco, il fatto di dire vogliamo il regno di Dio domani è un po' loro vogliamo tutto, però è tradotto in chiave religiosa. Però e la seconda cosa, perché la figura di catechisti gli ha permesso in clandestinità di organizzare un levantamento armato, perché nessuno faceva domande su dei catechisti che si muovevano, e in realtà si è organizzata una rivoluzione così. E poi anche ora abbiamo visto i megaprogetti in questo documentario. Padre Marcello, che è un compagno, una persona, magari gli mandiamo l'audio, vi fa piacere ascoltarlo, è un prete che, a partire da un'enciclica, lui usa questa enciclica del Papa, che qua è difficile da spiegare, però lui dice, vabbè, il Papa dice queste cose nell'enciclica, a me cosa mi interessa questa enciclica, cosa mi serve questa enciclica? A me mi serve strumentalmente per organizzare, portarmi 5.000 persone in corteo e fargli fare una peregrinazione di 2 giorni e farle marciare sul palazzo di Tuxtla e buttarglielo giù. Cioè, viene usata in maniera strumentale la religione, le persone hanno una forte religiosità, ma la Chiesa viene usata strumentalmente per organizzare. E questo, in realtà, noi che siamo distanti anche da questo mondo, ci piace, ed è, non si può fare i conti, ecco, senza religione. Certo. E la Virgen de Guadalupe come figura messicana, che la Madonna, diciamo, di lì, gli zapatisti ne hanno un'altra di Virgen, che è la Virgen della Resistencia, gli Oaxaqueños hanno la Virgen della Barricadas. Sono tutte figure che poi le vedi in un corteo, danno una potenza spirituale alla lotta, anche a movimenti armati o meno, ecco. Senza contare la spiritualità delle persone, che è una spiritualità che viene dalla cosmovisione indigena, ecco, non viene dal cattolicesimo. È un cattolicesimo che in realtà si è costruito su delle religioni, tante, che c'erano già, e però in Chiapas ha avuto questa intelligenza in alcune figure illuminate come Tatic, che è Don Samuel Ruiz, che era il vescovo di San Cristóbal durante l'insurrezione zapatista, che ha saputo spogliarsi della gerarchia, spogliarsi del suo ruolo di vescovo e mettersi a ascoltare. E in questo suo mettersi a ascoltare è nato pure quello che è lo zapatismo, ecco, cioè una commistione fra la religione, l'indigene e invece lo sguardo guevarista di questi sei pazzi che sono andati alla Selva Lacandona, hanno tirato su una guerriglia. Benissimo. Quindi religione e radio. Radio e religione. Radio e religione. Assolutamente, assolutamente. Bene. Molte grazie. Grazie. Beh, a voi. Stra interessante, strafigo. Grazie. Grande. A voi. Sì. Grande Radio Wombat. Alla prossima, speriamo. Alla prossima.